Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Giovedì 13 novembre 2008. Oggi abbiamo con noi il direttore del Gazzettino di Venezia, il quotidiano del Nord-Est, Roberto Papetti. Buongiorno Papetti. Buongiorno a voi. Allora, il Gazzettino di Venezia è un quotidiano storico, un quotidiano che ha appunto la sua sede a Venezia, anzi Venezia Mestre, ha edizioni anche a Belluno, in Friuli, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine, tutta la realtà del Nord-Est. Oggi in prima pagina l'apertura è dedicata a un fatto di cronaca, il giallo di Udine, ma poi anche i temi nazionali, gli scioperi, la spaccatura del sindacato, l'università. Cosa vuol dire, Papetti, fare il direttore di un quotidiano regionale in un'area come quella del Nord-Est, che è un'area tra le più vitali, ma anche tra le più controverse, tra le più dinamiche, ma in cui ci sono anche molte contraddizioni? È difficile? Beh, è difficile fare informazione in questo mondo, in ogni città, in ogni realtà. E fare direttore del quotidiano del Nord-Est vuol dire, per certi aspetti, sforzarsi di cogliere alcuni fenomeni anticipatori, nel senso che al di là dei luoghi comuni, una cosa è vera, che in questo territorio, forse per la sua collocazione geografica, che lo rende una sorta di porta aperta verso l'est, forse per un suo dinamismo e una sua globalizzazione che si è realizzata poi quando ancora di globalizzazione ancora non si parlava, effettivamente è un laboratorio dove si verificano e dove si anticipano alcuni fenomeni. Una prova l'abbiamo anche oggi. Uno dei titoli principali del nostro giornale è questa proposta della Lega di bloccare per 2 anni i flussi migratori per far fronte alla crisi. Ecco, questo, per esempio, ancor prima che Epifani ponesse questo problema, era un tema emerso sul territorio del Nord-Est, perché i primi segnali di queste difficoltà da qui erano arrivati. Questo è il territorio che in questi anni ha assorbito il maggior numero di immigrati, da cui è uscita una fortissima richiesta di forza lavoro proveniente dai paesi una volta extracomunitari, oggi in parte comunitari, ma comunque dall'estero, ed è l'area che si trova però a fare i conti con un flusso assolutamente sproporzionato rispetto a quelle che sono le attuali esigenze del mondo del lavoro. Ecco, anche per la situazione di difficoltà in cui si trovano le imprese, però è anche un'area, correggimi se sbaglio, Papetti, in cui ci sono molti contrasti, cioè ci sono realtà in cui l'inserimento degli immigrati è stato difficile, si sono create delle zone, degli scontri, delle forti polemiche, ed altre aree in cui invece questa integrazione è stata molto positiva, è stata costruttiva, è stata accolta bene sia sul fronte diciamo imprenditoriale e economico, ma anche sul fronte sociale, come integrazione appunto all'interno dei singoli paesi, nelle scuole. Quindi ci sono anche delle esperienze molto variegate all'interno della stessa regione. No, questo è fuori di dubbio. Di base il Nord-Est è sicuramente una realtà dove l'integrazione ha ottenuto dei risultati notevoli, soprattutto se si considera l'impatto che il fenomeno ha avuto su questo territorio, cioè un flusso numericamente enorme in un arco di tempo estremamente, estremamente concentrato. E noi teniamo conto che ci sono alcune realtà del territorio nordestino dove ormai gli immigrati legali rappresentano il 13% della popolazione. E ci sono scuole dove i bambini, i figli di extracomunitari di prima o di seconda generazione rappresentano oltre la metà degli alunni di molte classi. Quindi c'è stato un flusso intenso che è stato gestito complessivamente in modo efficace, efficiente. L'aveva notato da questo punto di vista anche il Presidente della Repubblica Napolitano quando un anno fa venne in visita nel Veneto. Certamente accanto a questo flusso ci sono stati una serie di problemi di ordine pubblico relativi alla sicurezza molto, molto, molto importanti. Io credo però che questo sia anche frutto di una pessima gestione del fenomeno, cioè lo Stato ha in larga parte delegato la gestione sociale, cioè gli effetti sociali di questo fortissimo flusso migratorio alle realtà locali e al volontariato. Ora, il Veneto è la regione italiana con maggior numero di volontari. Da questo punto di vista i volontari sia laici che cattolici hanno fatto molto, però questo non era sufficiente. Le ronde sono nate non perché c'è la Lega, o la Lega è forte, certo la Lega ha sicuramente sfruttato, lo dico in senso non negativo, come dato di fatto, questa situazione, ma le ronde sono nate perché il territorio era scarsamente presidiato dalla forza pubblica. Gli immigrati, magari non quelli di appena arrivati, ma quelli che sono qui da qualche anno, leggono il Gazzettino? In parte sì, capita ogni tanto di vedere degli immigrati che leggono il Gazzettino, di ricevere qualche lettera di immigrati, normalmente per lamentarsi, come spesso succede. Però certo il livello di integrazione culturale in senso complessivo delle comunità non è ancora arrivato al punto tale da farli sentire così partecipi al vissuto del territorio e quindi identificarsi anche con gli organi di informazione piuttosto che con altre realtà. Da questo punto di vista anche l'informazione ha ancora molto da fare e deve fare ancora molto. Non hai pensato di fare una pagina in lingua araba, per esempio? No, però stiamo pensando su alcune realtà come Mestre Venezia o come Treviso, dove la presenza di immigrati è particolarmente elevata e dove noi siamo particolarmente forti, di fare una pagina periodica dedicata alla vita di queste comunità, che ormai sono molto organizzate, hanno le loro strutture di rappresentanza, hanno una loro attività e vitalità culturale che normalmente è abbastanza sconosciuta. Sentiamo un ascoltatore, Patrick da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno, mi scusi, io volevo solo un chiarimento, perché ho sentito il suo, diciamo, ingresso a questa trasmissione dicendo che considera la terra del Veneto una terra di contraddizioni e controversie, ma volevo solo capire se era inerente al fatto dell'integrazione e delle, diciamo, un attimino dei temi che stavate sviluppando adesso, ecco, perché mi ha lasciato un attimino perplesso, perché secondo me il Veneto è una terra da prendere quasi ad esempio, perché io vivo in Lombardia, ma comunque tra Lombardia e Veneto mi sembra che c'è abbastanza sintonia, eccola, sono delle regioni che in fatto di integrazione mi sembra che possano essere un esempio, perché comunque c'è un sacco di immigrati, tutti abbastanza integrati, diciamo la parte buona, perché chiaramente c'è anche una parte di immigrati che si sa vengono, ma o per possibilità oppure per diciamo una propria loro origine, fanno delle altre cose, ecco, non vorrei scadere nel razziale, attimino delinque, però io vivo in una realtà di edilizia dove mi integro perfettamente con l'immigrato, perché se non ci fossero immigrati tanti lavori purtroppo le maestranze vengono a mancare del tutto. No, la ringrazio della sua osservazione, quello che volevo dire all'inizio, portando anche questa tematica, appunto le contraddizioni esistono, ma questo non vuol dire che il Veneto, il Nord-Est non sia una splendida terra, e lo dice uno come me che il Veneto ha nella sua carta d'identità come luogo di origine, e quindi è una terra indubbiamente che ha dalla sua tanti bellissimi caratteri, ma non possiamo negare che anche questa integrazione sia avvenuta negli ultimi anni anche attraverso delle polemiche, dei conflitti. Pensiamo a quanto è avvenuto a Padova, dove appunto si è creata una situazione di aperti contrasti. Quindi certamente forse la maggioranza della realtà appunto sociale è una realtà positiva, costruttiva, ma anche gli episodi particolari non vanno dimenticati. Roberto Papetti. Sono assolutamente d'accordo. Io credo che abbia ragione l'ascoltatore quando dice che dal punto di vista dell'integrazione il Veneto, così come la Lombardia, sono esempi da seguire, da studiare con attenzione. Anzi, io credo che ci siano esperienze di integrazione in Veneto che dovrebbero essere riprodotte e copiate e studiate e messe a disposizione dell'intero paese. Ciò detto, come sottolineavi tu, l'integrazione, la capacità del tessuto produttivo veneto e nordestino di accogliere migliaia, decine di migliaia di lavoratori stranieri, di inserirli in modo assolutamente omogeneo prima nel contesto produttivo e poi nel contesto sociale, e non ci deve far dimenticare che ci sono stati però alcuni problemi che sono stati, ripeto, non per colpa degli enti locali e non per colpa dei sindaci, ma sottovalutati, lasciati deteriorare, e poi ci siamo trovati a dover gestire situazioni come quella che tu citavi di Vianelli, o altre situazioni che si sono verificate sul territorio. Quando è stato costruito 2 anni fa l'ormai celebre muro di Padova, io credo che quella sia la dimostrazione più evidente, più lampante di una sorta di sconfitta, nel senso che quando un'amministrazione è costretta a prendere una scelta, a fare una scelta di questo genere, vuol dire che un problema che poteva essere affrontato non è stato affrontato. Questo, se nel momento in cui si sottolinea e si valuta un aspetto di questo genere, non si sta dicendo che l'integrazione non è avvenuta in Veneto, anzi, ripeto, il Veneto è da questo punto di vista un laboratorio eccellente ed è un esempio che andrebbe copiato e studiato. Beh, abbiamo in linea Roberto Papetti, direttore del Gazzettino di Venezia. Abbiamo sentito, piove un po' in tutta Italia. Vorrei però iniziare questa seconda parte con una domanda un po' più di carattere economico. Papetti, com'è la sensazione del territorio di fronte alle difficoltà economiche, a una crisi che è qualcosa di più di una crisi strisciante in questa fase? Papetti. Se si guardano i dati statistici, anche in questo caso il Nord-Est va un po' meglio o un po' meno peggio del sistema paese nel suo complesso. Dal punto di vista però dell'impatto psicologico, per così dire, della crisi, il quadro è un po' diverso, perché questo è un territorio che da ormai oltre 20 anni è abituato alla piena occupazione, non è abituato a sentir parlare di cassa integrazione, è abituato a un sistema produttivo molto, molto dinamico, con una grande vitalità di imprese, di nuove imprese, spesso microimprese che nascono. Oggi invece si trova improvvisamente perché non era atteso, a fare i conti con una dimensione diversa, e questo ha un peso notevole, nel senso che c'è una percezione molto, molto diffusa di incertezza e di insicurezza. Bisogna tenere conto, per esempio, che su un territorio come questo, dove le microaziende, cioè le aziende di 5-10 dipendenti, sono numerosissimi, anzi sono spesso in alcune zone la maggior parte del tessuto produttivo, la crisi del sistema finanziario e la difficoltà delle banche a erogare prestiti ha creato moltissimi problemi e una sensazione di grande incertezza, perché naturalmente queste realtà imprenditoriali così piccole hanno un potere contrattuale nei confronti del sistema di credito molto, molto ridotte, e quindi si trovano in forte difficoltà. E certamente nessuno poi in questa fase riesce un po' a salvarsi, deve tener conto delle condizioni complessive. Siamo in un'economia globale, le realtà locali possono certo difendersi meglio di altre, ma devono comunque tener conto di una situazione complessiva. Ah, sì. Dovremmo avere un ascoltatore in linea. Maurizio da Milano? Buongiorno, sono Maurizio e chiamo dalla provincia di Monza Brianza, con precisione dal comune di Desio, quindi un territorio che è stato terra di conquista del Veneto. Il mio comune ha avuto aziende come l'Autobianchi, ha avuto aziende come la Brollo, Profilati, Fatreddo e altre grosse realtà, dove hanno assorbito tantissimi migranti che arrivavano dal Veneto. con un tessuto che assomiglia molto a quello degli extracomunitari oggi, diciamo, marocchini, ovvero arrivano, si insediavano nel territorio in 5, 6 o 10 in un'abitazione, poi pian pianino si sono costruiti i loro quartieri con le loro usanze, con le loro sagre, con la loro lingua, perché il Veneto non hanno mai smesso di parlare in Brianza. Quando hanno, le realtà industriali purtroppo sono andate pian pianino sciamando e chiudendo, Autobianchi, Brollo, hanno vissuto il problema dell'integrarsi all'interno del territorio nelle piccole aziende. Ecco, e da qui hanno imparato il lavoro artigianale della Brianza, del tessuto brianzolo, e poi dopo si sono in parte ritrasferiti sul territorio veneto, e da qui le microimprese che stava dicendo adesso il direttore del giornale, e quindi la possibilità di fare queste attività nel loro territorio. Per quanto riguarda il discorso possibilità di reperire fondi che fanno fatica anche loro, come facciamo la fatica noi in Brianza, voglio ricordare che la Regione Veneto ha contributi dalla comunità europea a gogo, e ne fate spesso pubblicità anche a Radio 24. Sì, la ringrazio molto. Siamo un po' in conclusione, mi scusi, lei ha fatto una pagina di storia, adesso stiamo andando sulla cronaca, la pagina di storia indubbiamente interessante. Il Veneto è stata terra di emigrazione negli anni 50 e 60 e indubbiamente ha avuto un po' gli stessi problemi a livello interno, anche se ovviamente di carattere un po' diverso, perché emigrare tra regione e regione all'interno della stessa nazione è sicuramente diverso che lasciare terre lontane e vivere esperienze diverse. Ma c'è anche un'immigrazione di ritorno, Roberto Papetti? Molto molto relativamente, non è un fenomeno, no? Non è un fenomeno di grande importanza. E quello che sottolineava l'ascoltatore, certo, è un dato importante, che soprattutto che serve anche a capire un'altra realtà, e cioè scusate, il Veneto è una realtà dove il benessere e lo sviluppo economico ha tempi assolutamente più recenti di quello della Lombardia e del Piemonte. Questo spiega alcuni suoi elementi di forza, ma anche alcuni suoi elementi di debolezza. Un'ultimissima telefonata rapidamente, Paolo da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno al direttore. Niente, io sono un immigrato del Latino America. Io volevo un attimo, non ero d'accordo con quello che dice il direttore del Cassettino, no? Perché si sta parlando praticamente si sta minimizzando, si sta portando tutto il problema della migrazione sul discorso della sicurezza, quando sul Veneto io credo che si deve parlare su integrazione, su sviluppo, su vedere l'immigrato come risorsa. Perché per esempio io ho chiesto il visto per gli Stati Uniti, dove là ti danno un visto per 10 anni, qua ti danno un visto per 2 anni, ti arriva il permesso di soggiorno proprio alla scadenza. Grazie mille per questa testimonianza. Papetti, solo una battuta. No, è singolare con l'osservazione che è stata fatta, nel senso che io ho detto che il Veneto è una realtà esemplare dal punto di vista dell'integrazione, e quando si parla di integrazione però non è che poi si può sottacere una serie di problemi che pure esistono. Il contributo che danno gli immigrati allo sviluppo economico di questo territorio è formidabile da molti punti di vista, non solo a livello di edilizia così, ma anche in ambiti come la ricerca. Ciò non toglie che questo flusso imponente e realizzatosi in una fascia di tempo estremamente ridotta ha determinato anche una serie di problemi che non sono ancora del tutto risolti. Credo che dirlo non sia fare del razzismo o minimizzare un problema, ma significa essere consapevoli di una realtà che va affrontata, perché se non viene affrontata poi si verificano le situazioni che abbiamo, abbiamo dovuto fare i conti nei mesi scorsi. Una realtà che ha molti lati positivi, ma di cui non bisogna nascondere anche i lati negativi, proprio per risolverli e per farli diventare positivi. Grazie a Roberto Papetti, direttore del Gazzettino di Venezia, grazie a Carmelo Lauricella in regia, grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per domani.